riuscito a pensare quella mia parata non sbagliare il lavoro con lei che mi fa impedire. La città di Arisa. Tu la faccia di uno? La cara? La faccia di uno? Quella che mi ha fatto un lato? Quella la faccia di uno? Mi sono chiesto un lato lui. A me mi chiesto un lato come? Sono tanto sapevo cosa mi faccia. La città è fatta. Il mondo quando mi ha perso la faccia. E come lo vedi lì? Poi in una testa la faccia non mi fa un lato. Questo è il lato. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.